Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Ha fatto trasformare in un diamante le ceneri del figlio inviandole in Svizzera. La storia viene da Conegliano, dove un 55enne che si era recato in un'agenzia funebre per organizzare il funerale della madre ha notato la pubblicità di questa particolare tecnologia, decidendo di far trasformare nella pietra preziosa i resti del figlio ventenne morto tragicamente in un incidente stradale. A raccontarlo a un quotidiano locale è stata la titolare dell'agenzia funebre che ha svolto il servizio. I resti del giovane, sepolto in un cimitero della zona, sono dunque stati riesumati e inviati oltre Alpe per il processo di diamantificazione. Da allora sono trascorsi alcuni mesi. In questi giorni è avvenuta la consegna della pietra al genitore. Per lui, ha raccontato la titolare dell'agenzia, è stata una grande emozione. L'intera operazione ha anche dei costi rilevanti, va da 3.500 a 13.000 euro a seconda della caratura. Questa è la copertina della notizia che è uscita su Repubblica, ma anche su altri giornali, che ha destato un certo scalpore, anche se non è una novità. Io ricordo che un paio di anni fa facemmo varie trasmissioni di Melog proprio dedicate a questa possibilità di estrema riduzione delle ceneri di una persona scomparsa in un diamante. Il procedimento esiste, è possibile farlo. L'importante è capire quanto ciò possa creare una sorta di motivo ulteriore di elaborazione di un lutto. La domanda che si pongono tanti a margine di questo articolo, cioè sì, ma è qualcosa eticamente accettabile? Noi abbiamo ancora delle profonde radicate abitudini legate alla conservazione, al seppellimento dei corpi, in parte superate dalla terribile massificazione, dalla cementificazione di quelli che sono i moderni cimiteri, che sono dei luoghi di ammasso e di residui umani in via di deterioramento. Non ha nulla a che fare con i giardini della rimembranza che romanticamente amiamo pensare. Prima o poi ci dovremmo anche porre il problema dello smaltimento dei morti. L'edilizia mortuaria comunque comincia a dare dei problemi. Il necessario procedimento di avvicendamento, di inumazione, sono cose che comunque portano via tempo ed energie. Visto che in fondo il nostro involucro corporeo ha una sua importanza, enorme per noi finché siamo vivi, importanza comunque come oggetto di memoria, fulcro del ricordo, del filo d'affetto ininterrotto dei nostri cari, è chiaro che qualcuno si possa affacciare l'idea che piuttosto che andare muovendosi nello spazio e nel tempo di fronte a una lapide, magari arrampicandosi su una scala o semplicemente, come molti fanno, portandosi a casa un'urna di ceneri, comunque sia qualcosa di staccato da noi, avere magari un monile, un anello, un qualsiasi oggetto addosso con una persona cara trasformata in un diamante potrebbe dare l'idea comunque, nella nostra umana maniera, di avere la necessità di consolazione, di avere questa persona sempre al dito. Voi come la pensate? Esiste qualcuno che vi piacerebbe trasformare in diamante? Vi piacerebbe essere un diamante addosso a una persona che vi è cara un domani che voi non esistesse più nella vostra connotazione umana? 800240024. Mia nonna era una persona curiosa. Avevamo lo stesso carattere, la stessa sensibilità. L'ho fatto perché ho sempre voluto avere qualcosa che me la facesse sentire vicino. Sono assolutamente convinto che lei lo avrebbe voluto. Ciao nonna, come ti trovi qui? La prima impressione che ho avuto tenendo in mano quella pietra è stata molto forte, perché il diamante rappresentava mia nonna, anzi era mia nonna. Mi aiuta molto a sentirla vicina, perché il diamante è l'emblema del ricordo. Avete dei sostituti di questa operazione? Comunque è abbastanza elaborata, adesso ve lo dirò nel dettaglio come avviene. Ci sono oggetti, suppellettili, vestiti, foto che vi portate addosso semplicemente perché sono in qualche maniera impregnati dell'essenza fisica di una persona a voi molto cara? Questo mi piace sapere, perché passato e analizzato questo momento di passaggio fra la dislocazione dell'oggetto fisico del ricordo in un oggetto, in una sorta di reliquia profana di una persona scomparsa, il passaggio mentale a farne un diamante, quindi qualcosa di incorruttibile, eterno, intangibile e simbolicamente legato all'aspetto della massima essenza della materia, il diamante trasparente, il diamante durissimo, il diamante riflette la luce e ce la ridà sotto allegorie fantastiche, quindi il diamante è la rappresentazione concreta più vicina a quella che noi immaginiamo, la soluzione ideale dell'essenza di una persona scomparsa. So che l'argomento potrà sembrarvi macabro, ma mi piace questa mattina affrontare questo argomento, perché sono cose che parlandone ci si allontana da questa sorta di spettro di indicibilità. I diamanti del ricordo. I diamanti di alta qualità non si trovano più solamente in natura. Da qualche anno possono anche essere creati dall'uomo. Il nostro è un diamante autentico, con un alto grado di purezza, creato con il carbonio ricavato da una ciocca di capelli. E possiede esattamente le stesse caratteristiche fisiche di un diamante che si trova in natura, la medesima durezza, il medesimo splendore. Per creare un diamante come il nostro è sufficiente una piccola ciocca di capelli, 3-4 grammi, ma anche peli, placenta, cordone ombelicale oppure circa 250 grammi delle ceneri di una cremazione, circa una tazza di tè. Da tutti questi materiali, di norma, si ricavano circa 2-3 grammi di carbonio. Questa quantità di carbonio è più che sufficiente per creare uno o più diamanti unici e irripetibili. 800240024, come vedete nel procedimento è anche annesse parti organiche di persone vive, una ciocca di capelli, delle ciocche di capelli, ciuffi di pelo potrebbero benissimo essere trasformati in qualcosa di indelebile, di ricordo da regalare a una persona amata perché si ricordi di te. Ma trovo che sia molto efficiente questa trasformazione della nostra massa fisica in qualcosa che rimanga addosso agli altri, come lasciare il profumo addosso di se stessi a un'altra persona ma in maniera perenne, è come lasciare un graffio addosso a una persona, qualcosa che muta comunque l'idea della distanza quando noi non siamo vicini. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, io intervengo proprio perché ho sentito appunto il discorso principale di questa sua trasmissione. Sono rimasto, devo dire, abbastanza così scioccato, non tanto perché la cosa non rispetti i canoni a cui siamo abituati, perché io da quel punto di vista sono abbastanza così liberale. Il discorso però legato alla trasformazione in quello che è una pietra, per me rappresenta quello che proprio più si allontana da quella che può essere la continuazione di una vita, anche solo come ricordo. Piuttosto avrei più, diciamo così, favore in quella che può essere la trasformazione appunto in cenere per poi essere che vada ad alimentare una pianta o qualche vegetale o comunque qualcosa di vivente. Lei ha una visione molto orientale del ritorno comunque alle fonti naturali del nostro corpo, ma è quello che tutti pensano quando seppelliscono una persona. La pietra è esattamente la stessa cosa della cenere, è la cenere è compressa, detta in maniera molto volgare, quindi è il carbonio che rimane nella cenere di una persona scomparsa che diventa diamante. Qua parliamo però dell'aspetto fisico, quando uno va davanti a una tomba a mettere dei fiori lo va perché lì dentro ci sono delle ossa o c'è quello che rimane di una persona, c'è comunque il culto del contenitore organico dell'essenza di una persona che è scomparsa, la pensa ognuno come la vuole pensare. Cristina Sponza, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo fatto una piccola introduzione per dar modo al pubblico intanto di dire la propria, di abituarsi a questo problema. Lei magari che è responsabile marketing di Algordanza Italia, www.algordanza.it, che mi pare che sia anche l'azienda che ha provveduto, diciamo, alla trasformazione di questo ragazzo in diamante, quello di cui cita l'articolo di questa mattina. Sì, esatto. Quindi, siamo la filiale italiana dell'azienda svizzera. Ecco, diciamo, in Svizzera c'è, diciamo, la centrale di chi fa questo tipo di lavoro, poi volendo uno può farlo anche dall'Italia, non ci sono leggi che lo vietano o lo proibiscono. No, non c'è nessun problema da un punto di vista legale, in quanto avviene tutto in Svizzera, dove vengono raccolte le urne provenienti da tutto il mondo, per l'Italia è sufficiente ottenere il cosiddetto passaporto mortuario, che è quel documento che consente di portare le ceneri all'estero. Quindi deve essere già cremato in Italia, diciamo, il corpo. Sì, è la cosa migliore, la cosa più semplice, perché le ceneri sono poi un materiale inorganico che può essere trasportato facilmente con questo documento di accompagnamento ai fini della sepoltura in Svizzera, in quanto la diamantificazione in Svizzera è considerata una forma di sepoltura. Dopodiché il diamante rientra in Italia come una qualsiasi pietra preziosa. Diciamo però di quelle ceneri non rimane nulla, rimane solo il diamante, vengono usate tutte per fare il diamante, non viene seppellito nulla. Esatto, ecco, questa è la particolarità di... Senza entrare in termini scientifici complicati, come avviene una sorta di compressione simile a quella che la natura fa attraverso fanta miliardi di anni, la fate voi tecnicamente in poco tempo? Esatto, è molto simile, si estrae anzitutto il carbonio contenuto nelle ceneri. Il carbonio è l'elemento chimico fondamentale della vita, che è presente nelle piante, negli esseri umani, in ciascuno di noi, e resta in buona parte anche nelle ceneri. Quindi si estrae il carbonio. E il carbonio ad alte pressioni e altissime temperature, nel giro di parecchie settimane, si parla anche di mesi, viene compresso imitando quello che la natura fa in milioni di anni. E quindi atomo su atomo durante questo periodo si forma il reticolo cristallino del diamante. Alla fine, quando viene aperta la pressa, quello che viene fuori è un diamante grezzo che può essere consegnato grezzo ai... Può essere anche tagliato come un diamante per mettere in un anello, faccio un esempio. Esatto, può essere anche tagliato secondo i tagli classici della gioielleria, il più diffuso è quello a brillante. È un diamante a tutti gli effetti, quindi... È un vero diamante, è a tutti gli effetti, è ottenuto sinteticamente, ma è un vero diamante, ha le stesse proprietà fisiche, ottiche e chimiche. Mi spiega un po', diciamo, la tipologia di clientela che si accosta a questo tipo di operazione. Poi la copertina abbiamo fatto, anche parlato un po' di prezzi. Quanto costa più o meno e che tipo di diamante viene fuori? Quanto è grande, quanti carati? Un diamante montabile in un orecchino, non so, in un anello, oppure è piccolissimo e quindi deve essere messo in un particolare contenitore per non poterselo perdere, ecco. No, non è piccolo, anzi è abbastanza grande. Noi lo consegniamo normalmente in una apposita scatolina che può essere tenuta in mano per contemplarlo più facilmente, perché non gli vogliamo dare un valore di gioiello da indossare. Per noi è una forma di sepoltura. Poi è vero che molti clienti decidono di farne soprattutto un ciondolo da portare sempre con sé a contatto con il corpo. Quindi si riacquista anche un contatto fisico, perché uno un diamante può accarezzarlo, la cenere un po' meno. Quindi bene o male c'è l'idea di riavere un contatto fisico con una persona scomparsa. Esatto, è quello che altre forme di sepoltura non consentono. Si sta diffondendo sempre di più, anche in Italia, ad esempio, la moda di tenere l'urna a casa. Però l'urna non la puoi aprire perché è sigillata. Sigillata, non si può toccare. Vedendo, se vedessimo dentro cosa c'è, non troveremmo qualche cosa. Vabbè, uno mica se la può sniffare la cenere, certo, chiaro che è chiusa. Far diamanti delle ceneri di defunti. Edoardo, buongiorno. Buongiorno, sono rimasto molto colpito da questa informazione. Forse uno ci poteva arrivare ugualmente sapendo che, insomma, tutto ciò che è carbonio può essere trasformato e quindi arrivare in diamante. Però io volevo fare una riflessione. Io ho un figlio che lavora molto distante dall'altro emisfero e mi piacerebbe avere un diamante con una sua ciocca di capelli, ma da vivo. Cioè non deve essere necessariamente un ricordo di un morto, di un parente, di un figlio, di uno scomparso, di un affetto, ma può essere anche relativo a qualcuno che è ancora vivo, distante. Questo vale per qualunque affetto, certo. Adesso poi ci faremo confermare da Cristina Sponza cosa serve esattamente, quanta quantità di pelo umano serve per fare unghie, non so bene cosa bisogna raccattare per fare un diamante a una persona viva, ma è una delle maniere che si può senz'altro mettere in atto. Gabriella. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Ma beh, carina l'intervista precedente del signore che ha detto che sia interessante anche con altre parti del corpo e non necessariamente dopo la morte. Io personalmente mi piace questa idea. Lei cosa vorrebbe farsi diamantificare per darla a una persona? No, cara. Io no, al momento no. È sempre ma i capelli può farlo. Mi scusi? Può tagliarsi un po' di capelli, può farlo. Beh, porto già i capelli corti. No, io pensavo al dopomorte. Il dopomorte attinge ovunque. È interessante, mi piace l'idea di portare io stessa un diamante magari al dito con che rappresenti mio marito. Quindi ne ha già parlato con suo marito di questa cosa? No, purtroppo mio marito, io sono vedova da 10 anni. Ormai allora, non fa più in tempo, sì, è tanto. No, non fa più in tempo, ma l'idea mi piace, ma mi piacerebbe anche che le mie ceneri andassero a mia figlia a questo punto. No, l'idea mi piace molto. Beh, questo penso faccia ancora in tempo a provvedere. Sì, certo. farsi diamantificare. Allora, Cristina Sponza, ricordo responsabile marketing di Algordanza Italia, di questo si occupa. La prima domanda dell'ascoltatore: è possibile avere il diamante anche da persone vive, prendendo cosa? Capelli, mi sembra, o altro materiale organico, non lo so. Sì, è possibile farlo. Quanti capelli ci vogliono? Al caso precedente, è possibile farlo anche a distanza di anni, anche quindi con ceneri avvenute decine di anni fa, non c'è nessun problema. E per quanto riguarda... Quindi potrebbe la signora far esumare il marito, certo, e farci il diamante, sì. Certo, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda le persone vive, utilizziamo un altro marchio, per non mescolare le cose, altre macchine e un altro marchio, quindi... gli animali hanno un loro marchio che è sempre... Ah già, uno anche un gattino, un cagnolino può farci il diamantino? Sì. E succede questo? Lo fanno molti? Ma in Italia sinceramente no, gli animali non ha preso piede, mentre a livello mondiale, in Germania, soprattutto paesi arabi, si usa molto anche questa cosa degli animali. Animali da sezione, cavalli, penso soprattutto... È un cavallo avere un diamantone, penso. Grande. Ma la grandezza dipende essenzialmente da quanto tempo stanno in lavorazione in carbonio, quindi è una questione di tempo più che di quantità di materiali a disposizione. Algordanza si occupa dei morti, degli esseri umani e altri marchi di altre parti. Ecco, a parte gli altri marchi, ma una persona viva cosa dovrebbe dare di sé? Un po' di capelli? Quanto ne serve? Nel caso di una persona viva sono sufficienti 10 grammi di capelli, possono essere anche quelli di una persona defunta, magari uno vuole seppellire il corpo e tenere una ciocca di capelli per farne il diamante, questo è possibile. Ah sì, io penso grammi. Penso mia madre abbia ancora una ciocca di capelli quando ero nato, cioè del primo anno, quindi volendo potrebbe fare di me un diamante. Geppi, certo. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, ho letto questa mattina questa notizia, mi affascina moltissimo, mi ha ricordato immediatamente mio papà quando io ero una ragazza fidanzata con un veneto ed ero lombarda e mi diceva: ma chi è? E non lo conosceva, mi diceva: no, io devo conoscere questo che vuole portarmi via il mio brillante. Era lei il brillante di suo padre? Ero io, e adesso che ho più di 70 anni l'idea di tornare brillante mi affascina moltissimo. E quindi si farà brillantizzare? Non lo so, adesso ci penserò, perché è una cosa appena letta stamattina io. Si mette nella pressa e diventa un brillante. Danilo, buongiorno. Danilo. Buongiorno, sento pochissimo. Volevo dire, forse vado un attimino controcorrente, il pensiero che possa gravare un mio figlio con l'idea di avere al braccio o al collo o alla mano per tutta la vita il mio corpo ridotto chimicamente in anche diamante. Anche un piercing da narice potrebbe farne, carino. Esatto, o all'ombelico. Bello. Credo sia un qualcosa di tremendo. Poi volevo dire un'altra cosa. Ma perché tremendo? Cos'è che le dà fastidio in questo, per capire? Gli dà fastidio l'idea che se una persona vuole il padre allora è un conto, ma che il padre nel mio caso voglia che il figlio porti al dito. Ma lei pensi, lei invece una storia d'amore, una coppia che è stata insieme tutta la vita, avere un addosso il diamante, la persona che ha sempre amato, forse dà conforto. A me piacerebbe essere diamante di qualcuno che mi ha amato. Dà conforto, lei ha ragione, però io credo che la vita vada avanti. Ma poi per me che sono morto non è che mi cambia molto, onestamente. È un'idea che uno culla da vivo, poi quando sei morto sei diamante, sei sottoterra, sei impiccato, cioè non cambia molto. Paola. Sì, io intervenivo così, sono rimasta un po' sconcertata da questa idea di essere trasformati, diciamo, in pietre che poi uno si porta... Comunque mica un obbligo, nessuno obbliga nessuno, se no, non vuole. No, per carità, però insomma, mi chiedevo soprattutto una cosa, a parte vabbè, l'idea che solo agli svizzeri poteva venire in mente di fare un business. Beh, ma c'è in altre parti d'America, certo, però insomma... Del mondo, in realtà, diciamo. Quello che io mi chiedevo è, ma poi esiste comunque una tomba dove altre persone eventualmente possono andare a piangere qualcuno? Ah, lei dice nel caso che io decidessi a un amante di lasciare il diamante, devo lasciare una tomba vuota perché ci vadano i legittimi parenti a piangere. Una bella domanda. Infatti, cioè, esiste comunque una Cristina Sponza, questa domanda come risponde? Che rimane della tomba della persona diamantificata? Beh, volendo si può fare il diamante dai capelli e seppellire il corpo, il resto, quindi ecco. in questo caso non serve tutto. No, diciamo che noi il contenuto di un'urna lo diamantifichiamo tutto per essere in armonia con la legge italiana che considera l'urna un tutt'uno indivisibile. Certo. Quindi se viene la destinazione dell'urna deve essere comprendere tutto ciò che contiene. Non deve rimanere nulla, certo, devono essere disperse tutte, trasformate tutte, eccetera. Quindi non si pone il problema. Poi, È possibile fare più diamanti, però. Abbiamo avuto il caso di alcuni clienti, madre e figlia, che hanno fatto il diamante del papà marito scomparso, ad esempio. E se lo sono divisi in due, beh, è vero, questo, esatto. È possibile. Questo è possibile. Mi rendo conto che questa cosa ha lasciato perplessi molti ascoltatori, però nell'infinita maniera, nell'infinita gamma di dare un senso al proprio dolore e al proprio ricordo, cioè, ci sta anche questa. Mario. Mario. Buongiorno, sì. Buongiorno a lei e naturalmente buongiorno a tutti. Sì. Dell'opportunità per fare la mia domanda. Sì, la faccia, perché stiamo chiudendo. Che era di pura curiosità, sì. Io volevo sapere, visto che io ho deciso di fare una cosa del genere, chiaramente investo dei soldi, mi viene detto, come ho sentito prima, che alla fine è un diamante a tutti gli effetti. Io volevo chiedere, nel tempo questo prodotto, diciamo tra 10 anni, aumenta di valore, mi vale lo stesso, mi vale di più, mi vale meno? Una battuta, Cristina Sponza, vuol sapere se è un buon investimento fai di tua mamma un diamante. Beh, un diamante sintetico ha un suo mercato, soprattutto se è di qualità, non conviene farlo puntando all'investimento. Costa molto di più quanto costerebbe comprare un diamante sintetico, questo è chiaro, l'operazione costa. Grazie Cristina Sponza, grazie a tutti quelli che hanno chiesto questa mattina di essere diamantificati, sarete accontentati.